sto andando al campo. Di Vincenzo? Ah, sì. Ma c'era anche Vincenzo. Vittorio. Vai, saluto, ombre. Ciao, Vittorio. Vittorio. Devo venire con i walkie-talkie. No. Ma Vincenzo. Vittorio, mi senti? Vittorio! Vittorio, ricevi? Sono sull'altalena. Ok, giochiamo i carabinieri. Sono sulle statale 202, capo. E non riesco a vedere proprio la cosa, la traghetta. Ah sì? Dove sei in questo momento? Sono sulla statale 205. Per andare a Los Angeles. Ah, per quello? Già, sono partito. Come? Mi sono attaccato per andare. Qui non so se sta arrivando gente. Come? Ma lo vedo? Questo è il direttore. Cioè, è passato già di lì. Ah, è passato di lì. Sì, già. Però se mi è andato. Mi è andato tipo la pelle di. Vedo Capurovo. Capurovo. Dentro? Dentro dove? Dentro la tua. Da Vincenzo? Sì. Da Vincenzo? No, non proprio dentro da Vincenzo, dentro... dentro proprio la storia, non da Vincenzo. In quel corridoio? No, non in quel corridoio. Dove c'è il piattino? Dove c'è tutto? Io sto per andare. Allora arriva, va tra un po'. Ok, intanto ci vuole poco, sono appena entrato. C'è un criminale con la pistola che sta puntando una vera drogata. Con in mano... con in mano un bicchiere di pistola. Il marito, per farmi stare. No, non sono morto. Che cosa ne pensi? Oh mio Dio! Vittorio, adesso dove sei? Vieni all'evento. Dove c'è il padre? Toccare il canale, perché ho messo un canale privato. Non tocca il canale. Va bene, però io sto ritorno. Era il tipo di canale sui. Ah! come sorgere il sole. Wow. Infatti ci hai visto. Ma non è che io ti ho fatto il complimento e tu mi hai risposto. Appunto. Ma tu. Ma dove vuoi andare? Come ti permetti a dire? Delle cose dure. Sono... Non mi hai visto al parco, non mi hai visto dentro, né al campo, né quello che sono, né quello che sono. Non mi dammi senza nessuna delle cose che ti sono sentito. Ok, ti ho sentito. Ok, ok. Aspetta che mi sia la faccia, sta solo un po' di gara. Grazie, buonasera. E' bello. via, sono qua. Mi avevo dimenticato la pasta e via, me l'ho presa adesso. Allora, a letto, boh, mi sono alzato, c'avevo freddo. Allora, ho fatto merenda, mi sono preso una bustina. Domani non c'è il medico, perché di sera. E di sera è un casino, perché fa più freddo e non ci posso andare. Devo trovare mercoledì, mi faccio un salto. Ehi, state riservato un paio di lì, se no non ti passa. E vabbè, in cucina ti butto una gara a fiori, a fa, ha già fatto un gabbo, tutto il vapore acqua, ma è pulito tutta la cucina, se l'ho aperto la finestra. Sì, già si è asciutta, chi si sa voi. Ehi, ma mi dà fastidio che mi ha parlato di tutti i freddi. Mi avvia qui fatta la gara a fiori. No, anzi, chi c'è noi a sei bustini, è bella, bianca, bianca. E va. Ehi, che c'è la ventola della cappa? A aspirare, ma non aspira un tubo, va. Io piazzo l'altra ventola, perché dove c'è la ventola, se l'ha bruciata mi era uscito un po' nero, l'ho spruzzato con lo spray antiufa e l'ho imbiancato una passata di sì. E mi devo piazzare il motorino, va, domani ci faccio il tempo, me lo piazzo con il fuoco. E ho capito. Cazzo, ma c'è prima qua, cazzo, ho preso un pellet, cazzo, ho pulito la zuppa, altro è detto ranidro freddo, l'usante che l'ha fatto. Beh, non è abete, c'è scritto puro legno, e non si fa un cavolo. Anche a Maria rifalla il vetro nero, però scalda in una maniera allucinante. No, amico, ma ti finisci che bruciani? Si rubara a mia figliura, a mia cognata che fa l'altro tipo di stufa a pellet che brucia tutto. Questa se non metto solo a bette, se non prendo niente mi dà di fastidio. E poi domani mi portano il portacenere nuovo, perché il pellet è quello. Me l'ha spaccato il portacenere. Sì, addirittura. Che sta chiamando Graziano, avanti. Sì, buonasera Luca, buonasera Graziano. Guarda, tutti. Ciao Pompo, Grazie, lo senta Pomponio. No, perché sono al terrazzo. Aspetta, mi sposta a vedere. Mettiti in bagno sta pazzetto, così mi senti meno a me sente Antonio. Ti ascolto io a voi, aspetta anche a Luca. Ma qui non ti sento, è disturbato qua, sono al terrazzo. E io sono puntato verso di voi, quindi non lo so, io capisco che è avanti. Sento QRM, non sento, perché mi sono spostato, non sono in cucina. Ah, ecco perché. Non sento nulla, tutto QRM. E adesso meglio. Luca, non lo sento. No. Sì, io glielo sento. Buon po', mi senti? Sì, a voglia. Arrivi a fondo, arrivi, quando sta. Ma anche Graziano a volte che arriva a fondo. Arriva a fondo. Arrivi a volte quando come si fa di qualche parte. Ma a casa sì, buon po'. Sì, io sono a casa. Ma sei a casa, Pompu? Sì, ha detto di sì. Non t'ho sentito. C'è un casino stasera, boh, non so, c'è qualche interferenza nell'aria, boh. Bello, grazie. Ehi, vado in ufficio. Vado in ufficio. Cioè, a fare oggi. A cagare. Dai. Sì, ma sento un rumore, sì, ti sento. E che rumore sì? Oh, un rumore strano, non so. Perché sono in ufficio? Ah, cagando stai. Antonella, mi senti? Dì che fa schifo, ma che stai cagando? Vito, qui già ti sento, sono nell'ufficio. Sì, io so che sei nell'ufficio. Già ti sento. Quello è l'ufficio si chiama. Che si dice ufficio? Luca, rispondi, Luca. Non c'è cosa più bella sui tipi di mari, eh. Mi rilassa. Io sono buono. Attore, a me senti. Attore, lo senti a Graziano? Adesso non lo sento più, la sceso dentro l'ufficio. Mica tu non sei Pomponio, mi ha Pomponio sto dicendo. Aspetta, tu, lo sto dicendo a te. Sì, dimmi tutto. Ma non lo senti a Graziano? Sì, già lo sento, già a volte. Ho detto che avessi sceso dentro l'ufficio, che ogni tanto il segnale cala a zero. Ehi, ehi, andava. Ui, ai, ai. Avevo un po' di influenza? Sì, ce l'ho già dal primo dell'anno, ce l'ho. Fino a oggi, sono uscito oggi, guarda. Adesso mi sto bevendo una birra dopo 5 giorni, di virus. La mal di denti, la freddore, febbre, eccetera, eccetera, ma inculato. Ma supposta non ne hai preso, no? No, sta sintonia me lo sono mangiato prima di Natale, per sicurezza. Ma tu vai, bravo. Già lo credo, già. Adesso per la migliore del tempo cambia antenna, metto la discona. Aspetta, Vittu, però non sovramodulare. Se non ti rilanciano, non devi parlare sopra gli altri. Perché se fai così poi non ti fanno più parlare. Devi aspettare che ti chiamano gli altri. Purtroppo funziona così. Non è che parli quando vuoi tu. C'è una regola qua, Scusa, Luca. È come se stavo al telefono e parli tu. Ringraziando dall'ufficio, così io e lui ci sentiamo. Pomponio, non so se ti sente. Lo senti, Pompon? No, non lo sento per niente. Quindi lui è dalla parte del quadrato, mi ha 10 km in linea d'aria, non so se ci sono. Perché non vedo? Capito, è Vittorio. Tu hai detto che i tuoi sono a 10 km, non so se ci arrivi là, mi sa di no. Ma dove sei in questo momento? Stai dicendo 10 km, non ti avevo capito bene. Ho detto che i tuoi sono a 10 km, non ti sente, non so quanti chilometri sono in linea d'aria da te a lui. Comunque lui più o meno vicino al quadrato. Sai dove è il quadrato, dove c'è la torre, sei in quella zona. Già lo so. Adesso l'ho sentito. Adesso l'ho ascoltato, mi ha detto, già lo so. Già lo so, in quella zona, infatti questi non è che gli danno chissà cosa. Oh, scusate un attimo, arrivo subito. Ok. Luca! Ci sono ancora, ma tu eri lui che stavi parlando. Luca! A me senti, Vittu? Sì, ti sento, grazie. Aspetta, grazie che sono... che dal telefono ero, aspetta un attimo. Mi chiama quando entra, aspetta un attimo, Vittu. Che sto guardando il Fornelli. A mai il Fornelli, a mai sa. Sto comprendo la carazione con la riva. A mai, da cosa c'hanno di grave? Cucinando i caporazioni. Ho detto cosa c'hanno i fornelli? C'è qualche cosa che non va. No, sto cucinando il cavolo a fiori. Ah, ebbè. Fai bene a controllarli. Che non si attacca lì. Luca, sei tu? Grazia. Luca è rientrato. Sono qua, mi ha dato un cioccolato, se me lo mangio, un Bounty. Questo è un bacio con la ciliegia. No, questo è un duplo, cos'è male? La Kinder, e ce ne sono due dentro, un Kinder Bueno. Sì, è un bacio Bueno. Boero dolciando con la ciliegia. Brum! Cos'è? Cos'è mi ha fatto? Un bicchierino di crema al limone. Non lo vedo giusto, Non ha senso alla fine. Pazienza, ha perso, ma non dovete scannarvi. E chi? Quello che l'ho ucciso, l'ultra... l'ultra... dell'Inter. Ah! L'ha negazzegato, che ce l'ha negazzegato in macchia. E allora? Cioè, poi... a cosa? Beh, adesso l'ha ucciso, ti hanno trovato... adesso la paghi, cosa ci fai in galera adesso? Dimmi tu. Invece ti stava con la testa a posto, era tranquillo, no? Ma cioè, allora si rimasti che c'è in galera. La macchina, fa vedere una battita di pallone, si ammazza le tradizioni, fa un'oretta di sport, c'è bisogno di ammazzarsi così, roba la macchina. Quelli non sono tifosi, quella è gente malata di cervello. Cioè alla fine ha perso, va bene. Non so se ti ricordi tu anni addietro, me lo ricordo. Fulvia Torres. Tu devi vedere come gli hanno fatto i pullman, quelli dell'Ulbia, tutti distrutti, mentre tutti spaccati. Ma non so cosa da fare. Anche se ha perso la Torres, non so cosa da fare. Cioè. Non ha senso, cioè siete in Kiwi a guardare la partita e poi vi scannate. Ma andate a cagare, no? Sì, a me cognato ne l'aveva lampato da innanzi un muraglione e si aveva fratturato un braccio e l'anca. Adoro, sì. Meno male non ci vado io, ma puta sai. Io sono andato poco a niente, poche volte, poi non ci sono più andato perché ho visto... chi noi erano i diffusi, chi c'erano tutti randacci. Ma io ci sono andato tanti anni fa, ma ero ragazzino, non pagavo neanche perché c'era Ambrogio, ai Cancelli, Giorgio, vai entra, entravo gratis alla fine. Ma vedevo sempre cose strane, capito? Che alla fine ci magari me lo guardi vanno in Chivi. Poi magari ti mettono in mezzo e ti ammazzano. Allora, è così quando portavo mia figlia a giocare, da piccolina. Dovevi vedere le donne, tra mamma e mamma si ne bucavano i luci. E allora la dita mi figliola, chi? Dile all'allenatore giù, se ti vuoi giocare a quadra ti passo la figliata, che io non ti accompagno più e non vengo più. No, oggi di venire tutti i sigliadini buchendosi in luce a far rendersi. E non ci sono più andato. Veniva, la prendeva se ce la portava. Aveva voce. Si bisticciavano tra mamme e tra babbi pure. Ma non tennando. Ma alla fine è così. Non sono cose belle. Se uno si va... cioè, se uno va... a guardare una partita, va, perde, pazienza, perde, non è che va andare contro gli altri, perché ci sono gli altri tifosi, perché ha vinto, non è giusto, no? Io spero che, guarda, vedrai che poi diventerà una cosa molto difficile, e poi ti puniscono, se fai danni. Allora, ingegnere, da mai da lì da cazzo facciamo salire a palla, che c'è un po' roba, che c'è il mio figliolo, se no che c'è il mio nipote, e da lì incominciavano i bisticci, la farratura, e di vedere andare i chibi, fa cannami, ma io non vado più, non me la putti nulla, e non ci sono più andato, e allora... Ma come conviene. Vabbè. Stai martedì. Domani che cosa devo fare? Ah, andavo a vedere una cosa, una, non un'antenna, un... Non si vede una camera, dai. Sì, magari c'è lo spinotto che non ha fatto male, boh. Chi è? Qualcuno non esce. Io sento cru, però non c'è da nessuno. Popone è andato, se ne. Ehi. Non è là, ci sì. Ma io ancora ci sono, sto ascoltando a voi, ma se non mi date l'azione. Antonello, tu già lo so che ci sei. E cosa stiamo giocando a pallone a fare l'azione? Avanti! Vittorio! È l'azione, quando dici avanti, avanti Vittorio, avanti Vittorio, ma sono sempre. Ma però dai! Queste cose così come dice, mi ho visto, mi sto scontando da un'ora e mezzo. Adesso rilancia a Luca, te lo dice Luca, Luca diglielo tu. No, ne voglio più sapere io, mi interessa. Cosa hai detto? Accudire. Ho detto che non ne voglio più sapere, mi sa che è Bacchino, Bacchino. Vado da Bacchino. Ah, buon pugno. Pensavo te ne è andato. No, ho visto che ti sei spostato, sono andato a prendere la... A prendere la carta Bacchino. Guarda che quel ragazzo l'ho sentito, in un passaggio l'ho sentito, c'ha le zippe del bronzo. Antonello, io ti sento male, Luca, come vai? Lo sento male, Luca, ma che giusto sei? Io non sono... Luca! Grazie. Antonio, mi senti? Grazie, hai parlato. È il passaggio più lungo che ti sento in mezzo al QRM, prova! Sì, provo, uno, due, tre, metti l'antenna esterna almeno una volta, cosa stai con il bambino in cucina, in bagno? Guarda che c'ho l'antenna esterna e ti sento in mezzo al QRM! E io invece ho puntato l'antenna lì, proprio la telotte, figurati tu! Ti sento in mezzo al QRM, malissimo, come mai? Strano, io ti sento bene. Avanti, Pip, chi è? Io sono, io. Ah, ho detto quel ragazzo Vittorio, io l'ho sentito in passaggio, Cioè, Roger Pip di quei portatili della Brundi. E quei Brundi chi balla? E quindi quelli Brundi chi balla, che c'è l'agnello, capito, l'agnello, il lupo, con quella bambina. Eia, eia. Domani se non piove piazza la discona come antenna, così almeno chiami sette grazie. Tanto ce ne ho tre di antenne VHF qui, c'ho anche la XT3 e quella corta, quella lunga. Beh, l'ho levato il bip perché non mi piace, lo sento pure io. E anch'io lo sento, lo sai, invece prima la verità non si sentiva, è una cosa strana, forse magari abbiamo toccato qualche cosa nella tastiera e sentiamo i bimbi anche noi, di solito non si dovrebbe sentire, perché io mi ricordo la prima volta che lui si è visto il Roger, non lo si sentiva, lo sentivano solo gli altri. Così va bene, però se lo senti pure tu è fastidioso. Grazie, lo senta Pomponio. Prova adesso che mi sono spostato. Antoni, dove sei in bagno? Mi senti? Cosa stai facendo? La cacca? Cosa hai detto? Ah, oh Luca, le parole si mangia. Boh! No, ecco, Ha detto se stai evacuando. Ho messo la radio con l'antenna esterna, amico. Sì, già ti ho capito che stai usando la radio con l'antenna esterna. Adesso già ti sento un pochino meglio, là. Però, strano. L'antenna è puntata da te. Non è che io... Siamo. Perché prima non mi sentivo. Quindi vedi qui. O che non c'è l'antenna messa male, boh, ma che tipo di antenna c'ha? Quanto, che tipo di apparecchiatura c'ha? Ma quella cosa non ce l'hai messa nel telefonino. Mettiti con l'applicazione che c'ha Luca. O grazie a me lo usi il telefono e ti sento tramite il telefono. Grazie. Non ti vuole salutare, grazie a Marina, è arrabbiata con me. Grazie, non sento più, ma grazie. Che era? Io Vittorio. Ehi, è Luca. Luca, mamma Agnelli. A Torello ci sei? Ehi, ci sono, dimmi tutto. Ehi, ma boh, strano, oggi ti sento col QRM però, Boh. Anch'io ti ascolto col QRM. Perché non ti scarichi l'applicazione, quella della Midland, nel telefonino? C'è anche Luca, almeno si sente a fondo scala. Però nel telefonino quell'applicazione. Se ce l'hai allora basta passare su 14 e io sto sempre lì, non è che fuggo. Basta entrare su 14 e mi senti, ce l'ha anche Luca, ce l'ha. Sarà le 14? Non ti costa nulla, no? Su che canale? 14? Sì, su 14, sì. Sa. Oh, ya. Ha detto tu? No, ho capito. Luca? Ehi, mi senti? Graziano, mi senti? Prova, 1, 2, 3, prova. Ma mi ha dato i pari, giù. Cosa ha detto Antonello? Sono i pari, sono i nocchi. Non sparisco, sono qua. Ha detto Pompuno di andare là su 14. In quel dal telefono. Del telefono. Sì, ma dove c'è lo Smith, dove c'è quella 40 canali lì? Dove c'è scritto CH per esattezza, sì. E adesso vado sul 14. Canale 14 e ci dice vai su come si chiama, adesso non ricordo. Utenti. Ti appare il mio nome, che ti può fare? Oh Luca, non c'è sul 14. Ah, te un secondo che sto presentando, 2 minuti. Ah, l'ho messo sull'altra radio, non dove c'è, dove c'è 40 canali. Luca, tu acceso ce l'ha? No, il mio c'è il telefono scarico. E prova a me andare su col caricabatterie. Sì, adesso appena era a zero, si è spento proprio. Adesso appena da un paio di... 2 percentuali, 3 lo accendo. E sugli altri canali dall'altro baracchino, diciamo, là, c'è gente. Strano, laggiù un po' fa la gente si subito la gente. Lo so, si sento. Sì, no, io ce l'ho sempre. Caricato. E lo sono resettato. Perché non mi sembra lì. Aspetta 2 minuti. Sai che hai fatto resettato là, il telefono? No, devo staccare la batteria in questo telefono qua, capito? Quando scarico la batteria devo resettare. Stacco un attimino la batteria, poi la riaggancio e le impostazioni funzionano subito. Hai capito? In pratica non mi segna linea, capito? Perché avevo la batteria proprio a 0-0-0. Vedo 2 minuti che l'ho resetto e vedo chi è. Ma che telefono è perché? L'LG Android. Certo, la batteria è scarica. Ma l'ha acceso su quel canale là, Luca. Da cosa? Non sa poi profumi l'altro. E c'è la batteria di riserva. Quello di sotto a casa. Acqua da qua c'è a posto. si inserisce in quella batteria lì e sai, la batteria di riserva è agganciata all'altra. E va bene per quell'applicazione. 7 euro cosa vuoi di più? Ma è bella anche la batteria. Antonello, non l'hai acceso il telefono, sul 14. Ehi, aspetta 2 minuti che sto settando e ti chiamo. Ehi, io ce l'ho acceso solo sul 14. Avanti, giamo. Attento, pomponio, mi colpi? Tu cammini. Aspetta un secondo, che sto accendendo. Ehi, sul 14 sono, però sono dove c'è lo smittermi. Già lo so che sei di lì, aspetta. Lo sto appena accendendo, ho dovuto spegnerlo perché l'avevo messo in carica. Hai capito? Quando raggiunge la carica zero, lo sai, devo resettare, hai capito? Aspetta che ti aggancio le... Sta accendendo e ti chiamo subito. 2 minuti di tempo, nemmeno. Ehi, Luca, Gio Maria, non sentisci? Luca, ci sei? Vittorio, ci sei tu? Attento, Vittorio. Tu ti vai a dare un fumo, ci sei? Attento, Franco. Mi senti, Franco? Franco di Sorso, mi senti? Certo che ti sento, vedi, tu non hai neanche segnale qua, non c'hai neanche il segnale. Io ti ricevo forte e chiaro, mi sparla che ti faccio sentire. Sì, lo so che mi ascolti bene, perché via Sassa li arrivo benissimo. Lo so, grazie. Ti sei sentito? Salute. Quella più in alto è, meglio è. Lo so, adesso a primavera tanto devo cambiare il capo. O me la metto più su. Grazie. Luca. Passo 1, 2, 3, 4, passo, grazie. Carere. Franco da Sorso, non lo senti tu? Alla vittoria. Non lo senti tu però, a Franco e a Sorso. Chi parla? Luca, ma non ci sei più. Grazie. Dimmi! Ah, mi senti già! Cosa? Senti! Ehi, siccome mi hanno chiamato all'altra radio! All'altra radio? Sì, tu non eri quella della 27! Cos'è? Quella non ce l'hai, è della 27! Ah, non sei Graziano, mi scusa allora! Allora ho sbagliato canale. Vittorio, ma perché c'è sempre questo ciccalino? No, non metterlo, ga. Oh. Mari. E da tanto non ti sentivo, come stai? Ma è un'eccezione questo ciccalino, non metterlo, no. E ogni tanto fai la chiamata vocale, ma il ciccalino non metterlo. Saggio mai perché nessuno mi riceve, Graziano, c'è da farsi benedire. Rispondi quando ti chiamano. Se non c'è nessuno puoi fare la chiamata, se non ti rispondono aspetti, non è che devi stare sempre con questo ciccalino in mezzo. Beh, giusto. Scusa Gio Mari. Luca, ci sei? Luca col drone in mano. Gio Mari. Ma è il tagliere, ma non intendi stasera, so sì sì. Bella bene, ma rispondi. Sì, Gio Mari. Mi senti? Luca! Te la giudizio, è un manco di male, il durrone, Luca! Da soffare! Allora intendi, bello bene! Grazie! Vittorio! Uscendo sono, bene mi senti? Non ti ho capito! ho detto, se mi senti bene a me. E adesso non mi senti bene? Adesso sì, mi sento, ma forse un bel bene, mi sento, mi sento ieri. È strano che non mi senta Graziano, ma... Graziano! Bacchi! Buonasera, bene mi senti Bacchi? Oh, posso proprio. Non ho capito! Bacchi! Bobo! Bene mi senti Bacchi? No, posso proprio. Ma male sto uscendo! Niente, senti! Sto sotto bordo! Un attimo Bacchi! Ma tu non mi senti a me? Oh, ti sento bene. Oh, Bacchi, Bacchisio. Allora, io sono sette voi, sono io che non sto dicendo bene. Graziano non mi sente. Tu non mi senti bene, Non ti sento, ti faccio. Non vi capisco, Sono a frequenza. Parla l'italiano che ti capisco almeno. Dimmi tu. Sì, sono sua foto. Sono solo frequenza. Parla. Fai qualche parola a vedere se ti sento bene. Oh, ma mi pare che siete dentro in un bar, Ciao Maria, mi senti? Io non riesco a capirvi, Maria, mi colpi. Ernia! Ma mi intendo o non mi intendi? Prima cosa, grazie, piglia Bargetto a cosa, la platamora di Nandimi. Se ti sto chiamando, ma mi rispondi. Buonanotte. Sta giusto pure da Porto di Sant'Enna, se no non arrivi bene tu qua. A me sta dicendo. E allora, a me. Bacchisio. Grazie. Sì. No, pensavo con Maria. Vito, un attimino. Bacchisio. Vito. Sì, c'ho Maria. Adesso arrivato ti so bene. Sì, ti sento bene. È che molte volte vi sento da interrotti, perché siccome ho disattivato un programma, dovete schiacciare un pulsante per sentirvi. Adesso vi posso sentire tranquillamente. Vi sento un po' interrotto. Infatti, non so se state chiamando voi il pulsante malissimo oppure sia il mio walkie-talkie, perché il mio c'ha la faccia per 10 km, non è che prenda chissà cosa. Comunque già ti sento bene, già sta abbastanza bene. E anch'io ti sento bene, così che non è da me, e bensì è da Graziano, che non sta uscendo bene. Mi sento bene a tutte e due, mi. Chiamai! Dimmi tu, catta, mi ha fatto i carismi oggi. Carità, la sera si presenta di nuovo, stamattina era a posto, la sera si presenta. Oh Lu, ma vuoi che ti passa un raffreddore? No, la febbre, Giomari. C'è tutto l'asino, si sente, che si è messo male. Luca! Eia, grazie. Eia, mi senti Lu? Ma vai, c'è stazionaria, mio, con la radio. E io? Ma ti sento benissimo, chi è che non ti sente? Maria dice che non mi intendi. Adesso ti sento, ma prima non stavi uscendo bene. Mica c'ho con l'antenna esterna. Ma non è che rubiate delle bottone tra i cassetti, no? Un attimo, Lu, ci sono tre ore che ti stavo chiamando e non mi ha risposto, così che eri tu che non stavi uscendo. Io ti stavo chiamando, ma stavi parlando con Vittorio per quel cicalino e non si comprendeva nulla. Io a Vittorio lo sentivo e nemmeno a te. Così che io a Vittorio quando l'ho chiamato mi ha risposto e arrivavo bene, invece ho chiamato tre o quattro volte e tu non mi hai risposto. E Vittorio non stava parlando. Io che mi arrivi bene, Vittorio, Luca, anche Antonello, però Antonello un po' di qua terreme, perché per l'ulpero, perché c'ha il baracchino, il portatile attaccato alla direttiva e dunque non funzionava i cibari. Allora, Vittorio? Sì? Quante volte l'ho chiamato e non mi ha risposto Graziano? Ho detto quante volte l'ho chiamato poco fa Graziano e lui non mi ha risposto, mi ha risposto tu. Sì, l'hai chiamato molte volte, infatti non... deve essere un Graziano che non sente bene la voce tua, in che posizione è? Ma la sera levate le orecchie stamattina, capito? È per quello che lo sentiva. Ma si era pulito, ero manco, è già mi tenda va. Ehi, ma è stato entrato un conto a fiocco, vero lui? Sì, c'era Bacchisio poco fa ed è sparito, Bacchisio, chiamo a tu, grazie. Attento Bacchisio, caduto sei, pochi se contendi bisello fagiolo. Oh, stasera fumo niente, in giro, fumo niente. Allora... sarà Bacchisio, Brugeni. Luca. Grazie, ogni tanto ne combina una, Gio Mari. Secondo me il piede sarà messo dentro le calze. Ecco perché stavo uscendo male. Chissà che lei la dice di sede, ancora, per le bambine, e faccio, nell'asola, ed è giusto nell'asola. Dunque, vabbè! Giovanni sta castigato. Infatti. Ma castigato ansura. Lasci un attimo di bianco, grazie, ma che ci sopravviviamo, gatta. No, abbassa subito la portata, gatta. Stavo rispondendo a Luca che mi ha parlato, non l'hai copiato. Ma prima hai sopravvivuto, gatta, stavo parlando con Luca e mi hai entrato tu. Avanti Luca! No, tu vai a parlare Gio Maria e tu ci parlavi sopra. Bilancia! E adesso mi senti? Grazie, mi senti adesso? Sì che ti sento. Bene, bene. Sì. Vediamo un po', Luca. Sì Gio Maria, ti ascolto, benissimo. Tu mi ascolti? Sì. A fondo scala, sì. Io ti ascolto, sia uno che all'altro e anche a Vittorio. Grazia, ma se io lo chiedo a Gio Maria, perché mi rispondi tu? Gio Maria, va a passargli i ditti, vai. Ah? Vai da Graziano e passagli i ditti. Ma carità, sono Graziano, ragazzo, non si può fare più la là, ragazzo. Va bene, gatta, chi sta da me cronista, gatta. Ecco, entra la bassa subito la ruvido. Bisogna pesattino, grazie. Vai, Gio Maria. Che c'è, vai da me, chi sa Calafiori, chi va la Junior arriva e fra poco si pappa. Va bene. Ma arrivata dagli Iberia, Graziano, voce spogliatore. Tu, non ho capito. A tagliare gli Iberia, voce spogliatori. Per carità, Graziano, ragazzi. Non ve lo dai in mano, Graziano. E allora? 4 derivati subito, vero Graziano? Allora, abbatta che lo vedo in garage, con la manta, al calduccio, anche la motosega al calduccio. Ma il tuo è alpino, Graziano? Ah! Alpino è, la marca. Non mi ricordo che marca è. L'avevo preso da Pinuccio, da Carboni, ai punti. Ho capito. E quelli sono buoni, quelli alpini sono buoni, Da Pinuccio Sanna. Sì, ai punti, ha bisogno di un pacchino. Sì, l'avevo comprato lì, due ne avevo comprato. Fai roba buona, roba andante, burro, là. Qui c'è la buono, o quello che ho io l'avevo pagato quasi 300. Ha sviluppato il bagaglio un poco caro, ma ha sviluppato il bagaglio a me. Quelli di marca ti sviluppato il bagaglio, ti dice, se non vuoi chi c'è, se non ti vedi chi tu incontri la metà, ma non la marca chissà chi è. Luca mi sembra che ne sta vendendo uno, quanto ho capito. Non so se l'ha venduto. Che cosa? Ma Luca Frippero, che ne stava vendendo uno, c'è spogliatore, adesso lo so se l'ha venduto oppure no. Ah, ma non me ne esiste. C'era quasi sempre su Comprefendo, nel telefonino, ce n'era anche uno ieri, ne ho visto, anche una motosega c'era. Ma chi l'ha messo? Lo so chi l'ha messo, non l'ho guardato perché non mi interessava, però l'ho vista la fotografia di un cespugliatore di una motosega, anche una motozappa c'era. No, io sto parlando di Luca Flipper perché me lo stavo dicendo cosa, Gingo, Manuele Lai, che stava vendendo un cespugliatore. Non so se l'ha venduto a 100 euro, se è buono si può prendere. Bisogna vedere quanti cavalli c'ha, perché per 100 euro lo trovi in negozio anche, se per dire è un 26, costa 100 euro la briccola, anzi pure di meno. Da 28, allora, cazzo, io l'ho preso il 34 e l'ho preso il 160. Mio nipote, quando 2 mesi fa se ne ha preso uno, 34 mi sembra, ed era in offerta. Non mi ricordo dove l'ha preso però. Sarà lì. A Briccolo può essere, perché la Briccolo vende, è un beccaro, La Briccolo è un beccaro. Io l'ho preso dalla Briccoli e lì città mercato, però saranno 6 o 7 anni fa. Lì c'erano le offerte prima di chiudere lì e ha venduto un bel cosa, c'aveva anche dei cespugliatori, motoseghe, le ha vendute tutte. Va bene, era una miseria. No, allora voi ancora no. No, dopo 3-4 anni ha attaccato, ma casa di cooperativo non è ancora in attività benissimo, capito? Eia, ma io avevo preso la tinta lì, 10 euro un bidone grande, finirà una raffadda, in un'ora non finirà più. Io avevo preso la motosega lì stesso, 120, l'ho preso quella da 80, ma era piccolina piccolina, allora c'era la più grande, 120, ho preso quella da 120, motosega. Anche io ce l'ho nuova, la lama mi sembra che è da 80. Luca. Io mi sono qua nel gruppo che sta provando i post, questo sta vendendo un televisore decoder a tubo catodico con decoder esterno, 35 euro. Per carità. Cosa le fa una cosa del genere lui? Su questi televisori moderni, cosa va? Una cazzata, 30 pollici, mi sembra 128 euro, cazza, 30 pollici. Ti puoi immaginare, telefunche. Guarda te ne vai. Cos'è Vito? Vittorio ritardato, ha parlato. Grazie. Vittorio, va bene, da una voce ogni morte di mamma. Cosa hai detto, Vito? No, era che Luca stava parlando di cose, del decoder, televisore, ma lei gli ha detto cosa, John Mario, lei lascia perdere, è una cagata. Cosa hai detto, grazie. Lascia il burro, mi. E prendi lui. Luca, ma caduto sei, ogni tanto tu sei magnini, sì. Oggi è la sera veramente tempestosa, a quanto vedo. Dai, chiacchierate. E ho mettito in base a fare data, e poi uno lo fa vedere, e senta, allora rispondi, e ci soprammodoliamo un casotto, Va bene, dai, ci sentiamo, buon proseguimento a tutti. Ciao Giovanni, dammi bene, ci sentiamo domani, se sto procedendo bene. Ciao Mari, tata va, ciao Burueu, ciao Luca, ciao Vittorio, ce la risentiamo domani. Ciao. Luca, le va se va un poco notizie. Grazie, ci vediamo domani, mi raccomando, sempre stessa ora, working tutti i cassette. Ciao Luca, ci devo chiudere, buon proseguimento anche a te, ci risentiamo domani. E non è troppo, saluti, ciao. Chiudendo, sta grazia. Che sto chiudendo, Luca. Ci risentiamo domani, ciao Luca, anche devo chiudere, ciao Graziano. Via, ciao a tutti, ciao Gio Maria, ciao ciao ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao. Sentiamo.